Le 11 meno 5 alla fermata dell'autobus. Ecco la fermata del 31. Ah, scusi, il telefonino. Oh, it's all right. Pronto? Andrea, ciao. Sì, stiamo andando al parcheggio in Piazza della Libertà. Certo, puoi venire con noi. Che ore sono? Sono quasi le 11. Sì, ci vediamo al parcheggio tra 20 minuti circa. Dipende dal traffico. Bene. A dopo. Ciao. Are we meeting someone? Yes, Andrea. Viene a Greve con noi. Lavora per Italia Bella con me. Ah, ecco il nostro autobus.